terra, se mortali ed angeli attestarvi volesser che la non erea mentite, io risponder dovrei, tutti mentite. Son cifre sue, data per figlia un'alma si nera, si mendace. La gioia, le lacrime, la fondo, tutto è menzogna, tradimento in canto. Amor dicea, ami tradir.